Europa 24. Buon pomeriggio, noi ripartiamo dal TTIP, difficile acronimo per un tema importante che è quello del trattato commerciale di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, al centro di un complesso dibattito. Ieri è avvenuto un passaggio importante, la Commissione appunto per il commercio internazionale del Parlamento Europeo ha approvato con 28 voti favorevoli e 13 contrari il rapporto del relatore socialista tedesco Bernd Lange sul negoziato appunto in corso tra UE e Stati Uniti. Il voto, che dovrà essere confermato dalla plenaria dell'Europarlamento a giugno, è stato determinato dall'accordo tra i gruppi della cosiddetta Grande Coalizione, che sostiene la Commissione Juncker, quindi i partiti popolari europeo, i socialisti liberal democratici più i conservatori del gruppo ECR, contro l'opposizione di Verde, della GUE, la sinistra unitaria europea, e del Movimento 5 Stelle, che fa parte del gruppo euroscettico EFDD. Secondo le raccomandazioni approvate, il TTIP dovrebbe allargare l'accesso dell'UE al mercato americano, ma non indebolire gli standard comunitari nel diritto dell'UE di decidere norme nell'interesse pubblico, il vero nodo di questa vicenda. Intanto, con l'approvazione, ieri c'era stato anche una discreto numero di reazioni, tra le quali avevamo segnalato quello di Susanna Camusso, la segretaria della CGIL, scettica sull'eventuale approvazione del trattato. In particolare ha chiesto al governo Renzi più trasparenza sulla trattativa. Oggi a Milano risponde alla Camusso, non solo, il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, al microfono di Adriano Palazzolo. Si sta lavorando, ci sono dei round negoziali che vanno avanti, sono anche molto complessi. Io penso che tutte le valutazioni debbano essere fatte a trattativa conclusa, quando si capirà precisamente il punto di mediazione, di equilibrio trovato tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Io continuo a pensare che questi accordi, se ben impostati, sono un'opportunità. D'altro canto basta ricordarsi che l'Europa esporta negli Stati Uniti 15 miliardi di euro di agroalimentare, gli Stati Uniti esportano in Europa 8 miliardi di euro di agroalimentare, quindi senza, come dire, ideologie, noi dobbiamo valutare precisamente se gli strumenti dell'accordo che si va configurando sono utili per rafforzare il sistema agroalimentare italiano ed europeo. Guardiamo il testo finale e poi giudichiamo. E ora il tema classico di queste settimane, dunque l'andamento della trattativa tra Atene e Unione Europea. Un'altra puntata con l'ennesima scadenza, ormai imminente addirittura per domani sera, per quello che dovrebbe essere l'accordo tra le parti. Il servizio. Completamente falso che la Grecia rallenti i negoziati. Ci sono tutte le condizioni per poter firmare un accordo nell'immediato futuro. Così, in un'intervista di oggi, il vice premier di Atene, Dragasakis, ribadisce la volontà del governo Tsipras di chiudere in fretta un accordo entro mercoledì o giovedì al massimo per evitare scenari peggiori. Anche se, secondo il ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, commissariato a metà, il termine entro il quale la Grecia deve trovare un accordo con l'Unione Europea e l'FMI non è così imminente, è il 30 di giugno. Intanto il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici ammonisce: è chiaro che rimane poco tempo, la liquidità della Grecia si sta esaurendo, il negoziato comunque continua, abbiamo fatto passi avanti ma c'è ancora strada da fare su una serie di riforme, incluse le pensioni. In ogni caso l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro non è più un tabù neanche per il Fondo Monetario Internazionale. L'Europa deve agire subito per evitare il peggio, ha detto ieri Christine Lagarde, numero uno dell'FMI. Una bomba che ha costretto Tsipras, Merkel e Hollande a fare il punto in una conference call e ha fatto piombare la crisi ellenica come un macigno sul vertice dei ministri finanziari del G7. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, Europa 24 torna lunedì alle 14. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.